Salve a tutti gli ascoltatori e benvenuti alla puntata numero 7 di A Tavola con Fabiola. Questa è la radio Big World e io sono Fabiola. La ricetta di oggi è cardi alla parmigiana. Ingredienti per 4 persone: 1 kg di cardi, 60 g di burro, 60 g di parmigiano grattugiato, un limone, sale. Preparazione: mondate i cardi, scartate le costole esterne e togliete i filamenti. Tagliateli a pezzi di circa 5-6 cm. Lavateli e metteteli a bagno con il succo di limone. Nella pentola fate bollire l'acqua salata e metteteci i cardi. Mescolate con un cucchiaio di legno e fate bollire per circa 30 minuti. Aggiungete altro succo di limone in modo che i cardi restino bianchi. Scolate i cardi quando sono cotti. Imburrate la pirofila, fate sul fondo uno strato di cardi e sopra mettete i fiocchi di burro. Spolverate con formaggio parmigiano. Proseguite gli strati fino alla fine degli ingredienti. Mettete la pirofila in forno e fate cuocere per mezz'ora. Servite nel recipiente di cottura. Buon appetito! Vini consigliati: bianco di Scandiano, Emilia a 9 gradi, soave classico, Veneto a 9 gradi. Questa era la puntata numero 7, io sono Fabiola e vi ho presentato il mio programma A Tavola con Fabiola. Alla prossima!